Mix 24, la storia. '896, la Prince Regent Luitpold salpa da Genova diretta a Melbourne. Sul ponte della nave una ragazza guarda le coste dell'Europa. Bisogna avere un carattere molto forte per lasciare a 24 anni la Polonia dal ghetto ebreo di Casimir per l'Australia, da sola. Sulla lista di passeggeri c'è il nome di Elena Julie Rubinstein. Arriva in Australia con una decina di confezioni di crema della madre nella valigia. E lì prova a rifare la ricetta del chimico ungherese Lukuski. Ha inserito la lanolina, che dà una grande attività protettiva. È l'intuizione giusta. Nel 1902, quando Elena apre il primo salone di bellezza a Melbourne, per vendere la crema Valaz, le donne australiane hanno appena conquistato il diritto di voto. E queste donne, libere e belle, permettono ad Elena, emigrata polacca, di mettere insieme in soli 3 anni un patrimonio di oltre $100,000. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è l'avventura di una donna che ha rivoluzionato l'estetica, Elena Rubinstein, imprenditrice e filantropa. Madame, come era universalmente chiamata, grande lavoratrice, costruisce un impero multimilionario nell'arco di 50 anni. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Elena Rubinstein è alta 1,48 m, non bella ma molto affascinante. Invita la donna a curarsi e, come dice il suo motto, non esistono donne brutte, esistono solo donne pigre. È una celebrità non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti, dove il suo marchio domina il settore dei cosmetici. Con un giro d'affari di 2 miliardi di dollari di fatturato e 7.000 differenti prodotti venduti. È il 1928 quando Elena deve prendere una decisione cruciale che cambierà la sua vita. 1928. Dopo 8 anni di euforia delle borse, alla vigilia del crack, la Lehman Brothers studia il bilancio della Rubinstein & Co. e offre a Madame 7,5 milioni di dollari per acquistare l'80% della sua compagnia americana. L'11 dicembre 1928, concludendo la vendita, Elena diventa la donna più ricca d'America. Sfortunatamente sta arrivando la Grande Depressione, che non ha portato bene alla Lehman Brothers, perché loro hanno sbagliato tutto, non hanno capito e non si sono focalizzati sul fatto che un business destinato alle donne, diretto dalle donne, deve essere guidato dalle donne che sanno cosa si vende anche quando i tempi sono duri. Era la biografa Lindy Woodhead. La Lehman svende i prodotti di Madame sul mercato di massa, quota le azioni Rubinstein & Co. in borsa. In meno di un anno il loro valore scende da 70 a 20 dollari. Mentre il panico scuote Wall Street e il mondo intero, Elena viaggia, lontana dai suoi affari, tra Europa e Australia, studiando con i chimici più importanti dell'epoca. All'epoca venivano utilizzati come prodotti cosmetici anche dei prodotti che erano tossici, mentre invece lei si era cominciata, cioè si rivolgeva largamente ai prodotti di origine naturale. Avete sentito Anna Maria D'Ursi, docente di scienze cosmetologiche. Elena pensa alla prossima mossa. L'azienda, nata dal suo lavoro, che si basa sull'esperienza di una donna, dove le lavoratrici sono prevalentemente donne, non può essere gestita da banchieri ignoranti. Deve tornare nelle mani di chi l'ha creata. È il 24 ottobre del 29, quando il giovedì nero di Wall Street mette fine agli anni ruggenti. Elena Rubinstein pensa che sia il tramonto del suo impero. Ma è in una delle tante notti insonni che ha l'idea che cambierà il corso degli eventi. Lascia che il valore delle sue azioni precipiti e quando oramai valgono carta straccia, alla fine di ottobre, Elena ricompra il marchio a solo 1,5 milioni di dollari e il grande ritorno alla guida del colosso a New York. Ma da dove arriva questa donna che alla fine degli anni 20 realizza un surplus di 6 milioni di dollari? La sua è una storia leggendaria che inizia a Cracovia alla fine dell'Ottocento. La giovane ebrea Elena Rubinstein nasce il 25 dicembre 1872. Il suo vero nome è Kaya. Ce ne parla la sua biografa Michelle Fitoussi. I suoi genitori sono ebrei praticanti. A Camisier, un ghetto medievale di Cracovia, suo padre è povero, ha un piccolo bazar. Sua madre si occupa delle figlie, sono 8. Elena è la più grande e dà una mano in casa. È una famiglia modesta. A contare è la vita religiosa e soprattutto bisogna che le figlie si sposino. Ma Kaya non vuole, rifiuta 4 pretendenti. Impara i rudimenti di chimica dalla madre e a 24 anni fugge, prima a Vienna, poi in Australia, dove cambia definitivamente il suo nome di battesimo in Elena. Ce ne parla Michelle Fitoussi. L'impressione che mi sono fatta è che i genitori fossero molto severi. Mandarla in Australia è anche un po' sbarazzarsi di lei. Magari lì può trovare un marito. Troppo presto ho cominciato ad aiutare mia madre a tenere a bada una piccola truppa rumorosa. Ad essere la più grande di 8 figlie, ci si abitua a comandare. Era Elena Rubinstein, che in Australia, in soli 3 anni, dà vita ad un impero che vale milioni. Ascoltiamo Mason Klein del Jewish Museum di New York. In Australia tutte le donne che la incontrano vogliono sapere come fa a mantenere così bella e luminosa la sua pelle. Perché la loro, al contrario, soffre per il rigido clima australiano. Vogliono tutte sapere quale crema usa. Sono gli anni in cui truccarsi è ancora inappropriato per le donne, come spiega Katie Pace, storica. Mettere i cosmetici è considerato un comportamento poco rispettabile all'inizio del Novecento. Le donne che vogliono truccarsi e usare spesso i cosmetici non possono, perché è considerato al limite della pornografia. Truccarsi è associato alla prostituzione e all'immoralità. Lei è molto fortunata ad entrare nell'industria della bellezza in un momento in cui i costumi sono molto conservatori. Era Mason Klein, ma i costumi stanno per cambiare. Mix 24, la storia. All'inizio del Novecento, circa il 40% delle persone che vivono negli Stati Uniti sono stranieri, immigrati che arrivano nel nuovo mondo e vogliono fare qualcosa che non hanno potuto fare nel loro paese, che dicono: io ce la farò, rischierò per farcela. Rieccoci a Mix 24, era lo storico Lawrence Fuchs. Anche Lea Rubinstein ce l'ha fatta, il sogno americano per lei è possibile. Ebrea polacca, emigra prima in Australia, poi in Europa, dove è una celebrità con i suoi saloni di bellezza di Londra e Parigi. A 43 anni arriva negli Stati Uniti per fuggire alla guerra e all'ombra dell'antisemitismo. E il 1915 il suo arrivo a New York non passa inosservato. Vogue le dedica un articolo dal titolo «La più grande esperta europea di cosmetici e il suo repertorio di bellezza». Tutte le americane hanno nasi rossi, labbra grigie e facce coperte da una terribile cipria bianca. Riconosco che negli Stati Uniti potrei lavorare tutta la vita. Al suo arrivo in America, la quarantenne Elena ha un patrimonio di circa $500,000 e vorrebbe aprire il suo salone sulla Fifth Avenue. Il palazzo che sceglie, però, non può essere acquistato da ebrei. Madame allora compra l'intero edificio al numero 15 della 49esima strada, a soli 5 isolati dalla casa di bellezza di Elizabeth Arden. È l'inizio di una rivalità che durerà 50 anni. Sono già 3 anni che Elizabeth Arden vende i suoi prodotti nel salone di bellezza sulla 53esima strada. Nata in Canada nel 1881, orfana di madre dall'età di 6 anni, Elizabeth ha un carattere ribelle e appena può abbandona la casa paterna per fuggire a Toronto. A New York nel 1907 inizia la sua carriera come cassiera nel salone di bellezza di Miss Eder. Ce ne parla Katie Pace. Elizabeth Arden è veramente brava nel packaging e a realizzare delle confezioni di un'eleganza semplice, come quella della sua crema Venetian. Lei è convinta che per essere belle a volte basta un semplice tocco. Miss Arden e Madame Rubinstein si sfidano a colpi di lucida labbra, creme, mascara, rossetti, ma anche ginnastica e idroterapia. La notizia più importante della giornata non è l'accordo navale, nemmeno il proibizionismo, ma il ritorno ad una linea di prodotti naturali. Era Elizabeth Arden. Alla fine dell'Ottocento sono molte le donne che hanno inventato creme e altri prodotti da vendere localmente. Ce ne parla ancora Katie Pace. È possibile per le donne, anche quelle che non hanno risorse proprie, di entrare nel mercato dei prodotti di bellezza e aumentarne il business. Elizabeth Arden e Elena Rubinstein hanno fatto la loro fortuna vendendo la cultura della bellezza attraverso i trattamenti facciali, maschere per mantenere una bella pelle. Elizabeth Arden ed Elena Rubinstein per 6 decadi si sono scontrate e non hanno mai parlato l'una con l'altra. Era Mason Klein. Le rivali non si incontrano mai. Entrambe però sfidano il conformismo per realizzare il diritto di ogni donna di sentirsi bella. E allora la domanda è: quanto dell'industria della cosmetica deve alla rivalità tra queste due donne e chi sono veramente? Ce ne parlano Michelle Fitoussi e Virginia Drachman. Elena Rubinstein non è bugiarda, ma adora esagerare quando parla di sé. Non dice la verità perché intuisce che la comunicazione è una chiave del marketing, settore che sta emergendo all'inizio del Novecento, e comprende l'importanza di valorizzare la propria immagine, mettendosi al centro dei profumi e prodotti da lei creati, per venderli meglio. Elizabeth Arden understood. Elizabeth Arden capisce il potere della retorica del movimento per il suffragio femminile. Parla contemporaneamente alle suffragette, ma anche a tutte le altre donne giovani che possono truccarsi e vogliono essere belle. È una perfetta combinazione. Ogni donna con il trucco può sembrare fino a 15-20 anni più giovane. È il 1907 quando Elena, che non pensa affatto all'amore, ormai trentenne, assorta dal lavoro e dal successo, a Londra incontra l'uomo che le cambia la vita. Si chiama Edward Titus. Titus è anche lui ebreo polacco, emigrato negli Stati Uniti. È uno scrittore che conosce bene l'Europa e diversi artisti in Francia e in Inghilterra. Le ha chiesto di sposarlo perché ha riconosciuto in lei una donna molto forte, molto coraggiosa e intraprendente. Io credo che per questo si innamorò di lei. Il marito la introduce nell'ambiente degli artisti nei primi anni del XX secolo. La sua influenza le ha permesso di creare i propri saloni secondo la tradizione europea occidentale, ma era un farfallone e la tradiva. Ha 37 anni Elena e nessuna voglia di diventare madre quando si accorge di essere incinta. È il 1909, nasce Roy Valentine Titus. Il primo figlio, Roy, è nato in Inghilterra. All'epoca la Rubinstein non ha il tempo di occuparsi del figlio e il rapporto con il marito non va bene. Roy cresce da solo. Avete sentito Michelle Fitoussi? Nel 1912 arriva il secondo figlio, Horace. Horace è stato il figlio preferito e più amato. È nato in un buon momento, quasi in una seconda luna di miele per Titus e Elena. Nonostante l'apparente felicità coniugale, Titus continua a tradire la moglie. Well, you can cry. La prima volta che l'ha tradita, folle di rabbia, Elena si compra un collier davvero caro. Da allora, ogni volta che lei scopre una sua avventura, si compra incredibili gioielli, mettendo così insieme una fortuna colossale. Insomma, insieme hanno trascorso anni infelici, ma anche molto felici. Per non pensare ai tradimenti, Elena si tuffa nel lavoro. I suoi saloni fanno tendenza, sono frequentati da volti noti come la scrittrice Colette e l'attrice Sarah Bernhardt. templi sofisticati di bellezza interiore ed esteriore. Elena Rubinstein ha un'influenza molto importante nello sviluppo del design di interni ed esterni. È stata la prima a collaborare in questo senso con molti artisti. È la primavera del 1911, infatti quando a Londra per l'esposizione dell'artista Elin Nadelman, Elena ne acquista l'intera collezione per arredare i saloni e qualche anno più tardi gli offrirà il viaggio per raggiungerla in America. A parlarcene, Mason Klein e Michel Fitoussi. L'importanza di Elin Nadelman fu di appartenere al movimento del modernismo, che unisce tradizione e avanguardia. Elena Rubinstein ama questo artista, capace di unire stili diversi, senza però intimidire le sue clienti. Negli anni 20, a Parigi, a Montparnasse, incontra tutti i pittori dell'epoca, Modigliani, Chagall, Picasso. Li riceve tutti e spesso ne compra i quadri. Intanto la rivale canadese Elizabeth Arden si dedica ad hobby lussuosi, come l'acquisto di proprietà e l'amore per i cavalli. Crea il Department of Exercise, che fa parte del suo metodo scientifico per curare la pelle. Fare stretching, contrarre i muscoli e fare ginnastica vi renderà bellissime. Era Elizabeth Arden. Elena Rubinstein non è da meno della sua rivale. Grazie agli incontri con i più importanti chimici dell'epoca, come Marcelin Berthelot, inserisce nella cosmetica elementi nuovi. Elena Rubinstein comincia a introdurre alcuni concetti per quanto riguarda il settore cosmetico, che sono per esempio il concetto di una classificazione di pelli. Quindi per esempio lei per la prima volta comincia a parlare di pelle grassa, pelle secca. Lei promuoveva il suo prodotto molto spesso indossando dei camici bianchi, quindi per la prima volta, veramente diciamo molti anni fa, lei introduce il concetto di un messaggio del prodotto estetico con un messaggio pseudoscientifico. Era Anna Maria D'Ursi. Sono i ruggenti anni 20. Arrivano le riviste femminili e i messaggi pubblicitari. Le donne lavorano e si emancipano, vogliono dinamismo e bellezza. Mix 24. La storia. Rieccoci a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di una rivalità durata 60 anni tra le due icone della cultura della bellezza, Elena Rubinstein e Elizabeth Arden. Donne all'avanguardia, all'inizio del Novecento e per 50 anni sono le più ricche e importanti imprenditrici americane nel settore dei cosmetici. Canadese, frivola e bella Elizabeth, ebrea, colta e autoritaria Elena. Ho conosciuto Elizabeth perché lei aveva una grande passione per le corse di cavalli e anch'io seguivo le corse. Era molto di moda in quegli anni, tutti seguivano le corse. L'ho vista e l'ho ammirata. Era veramente carina, sempre ben vestita, in modo molto elegante. Aveva una bellissima figura. Era l'attrice Kitty Carlisle Hart. Sono gli anni 30, nonostante la crisi economica, gli affari dei marchi Rubinstein e Arden vanno a gonfie vele. Nel 1933 la quarantenne Elizabeth Arden, già in crisi con il marito Thomas Lewis, apre la prima spa e regala all'aristocrazia americana per $500 a settimana trattamenti di bellezza all'avanguardia. Elena, esasperata dai tradimenti del marito Titus, lo lascia e lo lascia sul lastrico. L'idea che mi sono fatta è che quando hanno divorziato nel 1938, in fondo lei non avesse molto tempo per l'amore. Era Michel Fitoussi. Qualche anno dopo il divorzio, Elena incontra il principe della Georgia, Art Kilgourieli. Il principe Gurieli è un aristocratico georgiano, 23 anni più giovane di lei. È il suo partner di bridge, un compagno gentile. Qualcuno le consiglia di sposarlo. le serve un marito e finalmente Elena si decide. Ma non saprei dire quanto veramente fosse amore o una necessità. A 60 anni la principessa Gurieli è la prima a realizzare una linea di cosmetici per uomo, per suo marito, il principe Artkill. Ascoltiamo ancora Michel Fitoussi e Anna Maria Dursi. Gurieli era un uomo gentile ed elegante. Per lui Elena crea la prima linea di prodotti di bellezza da uomo, negli anni 40, quando questi prodotti non esistevano. È per suo marito, il principe Gurieli, che Elena inaugura un salone a New York. L'insuccesso all'epoca della Rubinstein era legato al fatto che non c'era nella cultura del maschio quello di rivolgersi al prodotto cosmetico. Un'idea, quella della linea per uomo, troppo all'avanguardia per avere successo. E allora Elena continua a lavorare sui prodotti femminili. Sono gli anni 40 e le aziende cosmetiche resistono alla crisi della Seconda Guerra Mondiale. La Rubinstein crea il primo mascara waterproof e nel 1948 la sua prima fragranza. Collega bellezza e arte moderna, come racconta Mason Klein. Fu la prima a portare l'arte africana nei suoi saloni, unita all'arte moderna occidentale. Elena, in qualche modo, è una donna senza patria. Viene dalla Polonia. Diventa cittadina australiana, ha una casa in Inghilterra, due case in Francia, case in America, circa 100 saloni in tutto il mondo, in 4 continenti diversi. È una cittadina del mondo e per questo promuove le differenze culturali. Ma con la guerra arriva la prima di tante tragedie che colpiranno la famiglia Rubinstein. È il 1942 quando la sorella, Regina Colin, viene internata in un campo di concentramento. Purtroppo Regina è morta ad Auschwitz. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Elena vorrebbe aiutare gli ebrei ad arrivare negli Stati Uniti, ma è molto complicato. Decide così di regalare un'importante somma alla Croce Rossa polacca. Come donatrice era molto discreta, ma molto generosa. Ha creato una fondazione per la scolarizzazione di donne e bambini, che ha continuato ad operare per molti anni anche dopo la sua morte. This is the end, beautiful friend. È il 1953 quando Elena dà vita alla sua fondazione, che in 60 anni finanzia attività filantropiche per oltre 130 milioni di dollari. Non smette di produrre creme e a 80 anni realizza, come racconta Michel Fitoussi, la prima crema con ormoni per donne di età avanzata. È sempre stata al passo con i tempi. Ha inventato negli anni 50 una crema agli ormoni per le donne in menopausa. Sostiene infatti che a quell'età le donne hanno bisogno di creme con gli ormoni per migliorare la loro pelle. Il faut toujours aider la natura. Bisogna sempre aiutare la natura perché si può rimanere giovani in eterno. Nel 1955 il marito Artkill a morire. E quando è morto a Parigi ne ha sofferto perché era un compagno che l'ha amata e un uomo molto gentile con lei. Ma Elena deve soffrire ancora. Il rapporto già difficile con i figli finisce in tragedia. È la primavera del 1958 e Horace, secondogenito, figlio preferito, muore in un incidente stradale a 45 anni. La morte di suo figlio in un incidente stradale è stata una vera tragedia. Horace faceva di tutto per lavorare con la madre nel marketing, ma non era considerato bravo. Alla fine, credo che fosse una donna incapace di amare. Aveva dei sentimenti molto forti per i figli, ma in fondo non riusciva a stimarli. Graham Sutherland, che dipinge il ritratto di Elena, dopo la morte del figlio, di lei dirà: è magnificente e monosillabica. This is the end. Beautiful friend. In 50 anni Elena mette insieme un patrimonio di oltre 100 milioni di dollari, due mariti, tra cui un principe e due figli. Sono gli anni 60, i nuovi marchi Maybelline, Revlon, Yves Saint Laurent, Shiseido cambiano il volto di un'industria in continua espansione. Arriva la televisione e così il primo spot TV della Rubinstein originale. You need Helena Rubinstein's revolutionary new mascara magic, the first automatic mascara applicator. It's quick and easy as a wink. Ecco a voi il nuovo meraviglioso mascara Matic di Helena Rubinstein. Il primo mascara ad applicarsi in modo facile e veloce. Sono gli anni del movimento hippie, del rifiuto delle costrizioni, dell'uguaglianza dei sessi. I marchi Arden e Rubinstein cominciano ad essere considerati antiquati. Ascoltiamo Lindy Woodhead. The 60s unfurled because at that point you had all those bright. Negli anni 60 arrivano le teenagers ribelli che non vogliono assomigliare alle madri che usano i prodotti Rubinstein e Arden. Vogliono truccarsi e andare a dormire senza struccarsi. Questi sono gli anni 60. È la fine di un'era. Il primo aprile 1965 Helena Rubinstein muore a New York a 93 anni. Alla sua morte lascia un patrimonio di oltre mezzo miliardo di dollari al figlio Roy, che nel 1988 vende alla L'Oreal. È stata una vendita difficile, prima a Colgate, poi la compra L'Oreal. L'Oreal bought. Era Mason Klein, la principessa Gurieli ha creato uno dei più grandi imperi di estetica della storia, che conta tra l'altro 62 diverse creme di bellezza, 78 ciprie, 46 profumi e colonie, 115 diverse tonalità di rossetto, oltre a saponette, fardo, ombretti e mascara. Madame è stata la prima imprenditrice, la prima self-made woman, che ha reso la sua stessa immagine un marchio di successo. Ma preservarlo per sempre non è possibile. È triste, ma è così. Tirannica, severa, grande lavoratrice. Quando muore a 93 anni, non ha mai smesso di lavorare. Questo, io penso, sia il segreto del suo successo. Mix 24, la storia. Laura Tonatto, 50 anni torinese, uno dei nasi più famosi del mondo, a capo della sua azienda Laura Tonatto Profumi. Come si arriva a realizzare il profumo della regina Elisabetta? Ci è arrivata la regina? Guardi, quando è arrivata questa chiamata, io ho pensato che fosse un mio amico di Londra molto scherzoso e quindi ho fatto verificare questa telefonata più di una volta e quando poi invece c'è stato l'appuntamento, l'invio dei biglietti aerei eccetera, ho detto ma forse allora questa cosa è davvero così. Poi ovviamente c'è stato l'incontro con il direttore generale di Buckingham Palace che ha dato questo brief molto dettagliato, molto preciso. Per la realizzazione del profumo ci sono voluti più di 2 anni perché ho fatto prima delle proposte, poi Sua Maestà le ha approvate. L'ha incontrata Sua Maestà? Sua Maestà l'ho incontrata grazie ad un invito a luglio dopo la consegna del profumo. Ed è stato veramente uno degli incontri più emozionanti della mia vita. Come nasce la passione per il profumo? Ma io sono nata così. I primi ricordi sono olfattivi. Helena Rubinstein, che è stata una delle prime donne imprenditrici di successo nella cosmetica, cosa l'ha colpita di più di questa storia che abbiamo raccontato? Beh, intanto un percorso suo personale che ha voluto in questo settore, che è quello della cosmesi, proprio per essere vicina alle donne, vicina alla bellezza, un racconto di bellezza, di imprenditorialità geniale e assolutamente anche questa sua vicinanza nel sociale. Lei ha capito di aver avuto una grande chance nella vita e però non si è nascosta e ha beneficiato lei sola di questa cosa. Qual è il genio di Elena Rubinstein? È quello proprio da donna di aver capito che le sue potenzialità potevano essere paragonate a quelle di un uomo, e allora è stato veramente un percorso molto molto pionieristico, ecco. Laura Tonatto, lei fa una vera e propria ricerca storica delle fragranze. Secondo lei Elena Rubinstein che profumo utilizzava? Secondo me sicuramente, attratta dalla bellezza, cercava tonalità vere, reali. Per esempio? Per esempio la rosa di Taif. La rosa di Taif è una rosa rarissima che cresce in Arabia Saudita. È una produzione che regala 16 kg all'anno e non di più, è tutta per il re dell'Arabia Saudita. Il re la divide in tola, sono piccoli flaconi da 11 grammi, la tola è l'unità di misura saudita, e la regala ai dignitari uomini che hanno fatto qualcosa di importante per il regno. Quindi questa rosa rarissima in Arabia Saudita diventa simbolo di prestigio e di potere. Madame, come la chiamavano tutti, è stata definita una self-made woman. Anche lei lo è? Beh, io ho dovuto sicuramente anche studiare, perché questo è un settore dove la conoscenza delle normative, delle materie prime è molto importante. Nel mio settore però sicuramente ho fatto un percorso molto personale, molto unico. Per questo ritengo che di aver fissato alcune cose nella storia della profumeria che sono particolari. Unico perché? Per esempio io ho molto amato il lavoro che ho fatto per il Museo Hermitage di San Pietroburgo, e cioè il profumo del quadro di Caravaggio, Suonatore di Liuto, che è l'unico quadro di Caravaggio conservato al Museo Hermitage ed in Russia. Il fatto che le persone potessero ammirare il quadro e sentire i profumi che Caravaggio aveva sentito, perché Caravaggio dipingeva dal vivo e quindi gli elementi del quadro erano scelti da Caravaggio e anche annusati, ecco, questa cosa mi è sembrata una cosa assolutamente originale sua. Qual è il giro d'affari del settore cosmetico oggi? Guarda, il giro d'affari è grande, è un settore che anche se di poco comunque risente della crisi. Nel settore specifico della profumeria escono più di 6.000 lanci di profumo all'anno, di questi più dell'80% spariscono nel giro di 11 mesi, 12 mesi, e sono veramente pochi quelli che durano più di 5-6 anni. Quindi è difficile affermarsi. È molto difficile, ci sono tentativi molto sporadici, molto improvvisati da parte di tutti, perché è un settore che attrae moltissimo. Secondo lei qual è il segreto del suo successo? Guardi, io sono sempre stata molto coerente e molto leale, non ho mai fatto promesse che non potevo mantenere o descritto cose che non erano vere nelle mie etichette. In questo mio percorso sarò ancora nei prossimi anni ancora più decisa. Io da pochissimo mi sono staccata dalla società nella quale ero socia con alcuni miei familiari, e voglio continuare il mio percorso personale firmando con la mia personale firma ogni mio prodotto. Io ho cercato veramente le materie prime più straordinarie della terra e le ho messe nei miei profumi. Il futuro della cosmesi sarà sempre più legato alla scienza o si tornerà a prodotti più semplici e naturali? Io mi auguro sempre più legato alla scienza. Se il concetto di biologico e naturale che sta venendo fuori anche nelle ricerche di questi ultimi giorni è una truffa, perché il biologico e il naturale, come sappiamo, non vuol dire assolutamente più nulla. Tutte queste certificazioni che ci sono molto pilotate, poi i prodotti non sono mai funzionali così come promettono sulle etichette. E in più ci sono alcune cose da sottolineare e da evidenziare al pubblico. Ci sono alcune sostanze naturali che sono nocive, ci sono alcune sostanze di sintesi che invece assolutamente sono molto utili. Un esempio? Ma un esempio, guardi, la cannella nel Food and Drug Administration americana è vietato dall'olio essenziale di cannella da più di 30 anni. Da noi è ancora utilizzata molto bene. C'è questo muschio xilene, che è una materia di sintesi che è vietata, e per fortuna la comunità europea da adesso ne ha preso l'applicazione in pratica, e quindi insomma ci sono delle materie prime che non possono essere utilizzate, che non devono essere utilizzate. Quindi sempre di più molta attenzione all'etichetta, cose dichiarate in etichetta, ma sempre di più cercare di dare informazioni al pubblico per poterle leggere e capire queste etichette. Grazie Laura Tonatto. Grazie a voi.